Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dopo l'ennesimo caso di malasanità in Calabria, la mamma di un bimbo morto nel 2005 per un'ingessatura troppo stretta scrive al Corriere della Sera per raccontare il dramma vissuto in questi anni. Caro direttore, sono Fatima, la mamma di Andrea Bonanno, il bambino di 7 anni che nell'ottobre del 2005 ha perso la vita nell'ospedale civile Annunziata di Cosenza per un'ingessatura troppo stretta applicatogli al braccio. Scrivo questa lettera perché l'ultimo dell'anno in Calabria si è verificato l'ennesimo caso di malasanità. Nello stesso ospedale, stesso reparto di ortopedia e traumatologia, in cui ha perso la vita mio figlio, a una bambina di 2 anni e mezzo è stato ingessato il braccio sano anziché quello fratturato, e ai lamenti della bambina la risposta dei sanitari era che faceva dei capricci, esattamente come si diceva per Andrea. Fortunatamente, la bimba non ha subito danni. Purtroppo per Andrea non è stato così. Il 26 settembre scorso, il Tribunale Penale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del dottor Gianfranco Grillone, ha condannato 3 medici. 2 per omicidio colposo, tra cui il primario del reparto, e 1 per falso, per aver alterato la cartella clinica di Andrea. Come si vede, qui non ci facciamo mancare proprio niente. La nostra è stata una lunga battaglia legale, che ci ha portato a scontrarci con il sistema. In questo processo c'è stato di tutto, dalle perizie false, dalle quali il GIP ha preso le distanze sconfessando i suoi stessi periti e rinviando a giudizio gli ortopedici, ai numerosissimi incontri con i rappresentanti delle istituzioni, tra i quali risalta nel giugno 2008 l'incontro con il ministro di Grazia e Giustizia, Angelino Alfano. Tantissimi gli sforzi compiuti da me e mio marito per assicurare una degna difesa ad Andrea, almeno da morto, visto che non siamo stati in grado di proteggerlo da vivo. In dibattimento abbiamo affidato il caso all'avvocato professor Carlo Taormina e all'avvocato Enzo Belvedere del Foro di Cosenza. Le consulenze sono state assegnate al professor Alessandro Dell'Erba della Prima Università di Bari e al professor Lamberto Perugia, massima espressione dell'ortopedia italiana. In corso di causa, al giudice, lo stesso Perugia ha riferito tante cose, ma una mi ha sconvolto e frustrato particolarmente. Che per salvare la vita di Andrea sarebbe bastato che quegli ortopedici avessero seguito le regole basilari, quelle che a suo dire si insegnano ai tirocinanti. Per adesso la giustizia ha trionfato in un'aula di tribunale, ma è difficile che questo risultato risani ciò che si è spezzato irrimediabilmente nelle nostre vite. Il giudice, nella sua sentenza, con motivazioni contestuali, denuncia il sistema. Questi sono alcuni passaggi della motivazione. Si è detto che Andrea Bonanno è stato vittima della trascuratezza, quando invece in quei pochi giorni di ricovero è stato visitato, curato, seguito da decine tra medici ed infermieri delle più diverse branche, fatto oggetto delle più svariate consulenze, sottoposto a una serie innumerevole di trattamenti ed accertamenti. Eppure la struttura che avrebbe dovuto garantirgli la guarigione da una banale frattura lo ha ucciso. Il piccolo Andrea è stato prima di tutto vittima di un sistema che concepisce il malato come una sorta di fantoccio inanimato, un contenitore di organi e di ossa trasportato da un reparto all'altro perché nelle migliori delle eventualità questi e quelle vengano prese in carico dagli specialisti di settore, o perché nella peggiore chi si è trovato a gestire il paziente critico si è messo un domani in condizione di poter dire, soprattutto poter documentare, che nessun sintomo è stato trascurato, nessun esame è stato omesso, nessuna consulenza non è stata invocata. Poi c'è un bambino che si lamenta per un gesto troppo stretto, ne porta i sintomi che anche un profano sarebbe in grado di decifrare, ma il sistema ha ormai reso tutti ciechi e sordi. Forse è troppo scomodo tutto questo, qualcuno penserà che è troppo duro, ma io che ho assistito alla sofferenza e alla morte di mio figlio, penso che è stato quasi divino. È come se il giudice avesse visto attraverso i miei occhi e quelli di mio figlio tutto l'accaduto. Tra non molto, ci sarà il giudizio di appello. Lotteremo con tutte le forze affinché siano confermate le condanne, così come continueremo a lottare per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai medici condannati, che a tutt'oggi continuano a svolgere la propria attività come se non fosse successo nulla. Anche la Commissione parlamentare sugli errori sanitari a riguardo ha chiesto espressamente al presidente Loiero che ciò venga fatto al più presto, ma ancora non è stato possibile raggiungere questo traguardo, che per me è il più importante, perché solo quando tutto questo accadrà, Andrea forse avrà giustizia. Qui la gente perde la vita, non perché viene sottoposta a degli interventi di alta chirurgia dove i rischi sono messi in conto, bensì per appendicite, per ascesso tonsillare o peggio ancora per un semplice gesso. È forse chiedere troppo, desiderare che qualcuno faccia qualcosa per fermare questa mattanza, ma non con parole o false promesse, con fatti concreti. E per chi pensa che questi casi non meritino la stessa valenza dei casi di cronaca, quella fatta da persone senza una morale, senza scrupoli, vi assicuro, data la mia esperienza personale, che non c'è alcuna differenza. Anzi, ci si sente doppiamente traditi, perché ho affidato mio figlio a dei medici, credendo che fosse in buone mani. Ma così non è stato. E una volta che mio figlio è morto, in quell'esatto momento ha smesso di essere qualcuno ed è diventato solo qualcosa per cui liberarsi al più presto da ogni responsabilità. C'è chi ha falsificato la cartella clinica. C'è la cosiddetta commissione interna che, con assoluta mancanza di rispetto verso la morte di un bambino e dei suoi genitori, senza aspettare neanche l'esito dell'autopsia, era già pronta a sostenere ipotesi assolutorie, nessun colpevole. Ho sbagliato a pensare che i medici, per la semplice scelta della nobile professione, abbiano per forza anche l'animo nobile e dei principi morali. A mie spese, però, ho scoperto che non è così. Loro si difendono anche quando sono così evidenti le proprie colpe. Affido questa lettera, semplice contenitore di un dolore in realtà incontenibile, a tutti i lettori, sperando, o forse sognando, che qualcosa o qualcuno possa porre fine a tante ingiustizie. Avete ascoltato la lettura della lettera di Fatima Bonanno, mamma di Andrea, dal Corriere della Sera del 4 gennaio. Sono sempre più numerosi i casi di genitori che hanno trasmesso ai figli l'abitudine di consumare droghe e che ora si ritrovano insieme a loro nelle stesse comunità di recupero. Un anno fa ero in cima al mondo, avevo denaro e successo. Oggi invece sto perdendo tutto: il lavoro, la famiglia, il rapporto con mio figlio che ha soltanto 17 anni. Quest'estate mi ha confidato di aver preso la cocaina con un gruppetto di compagni. Come potevo dirgli di smettere? Sapeva che sniffavo anch'io, mi aveva visto farlo a casa con gli amici. Gli ho detto solo di fare attenzione e qualche volta abbiamo anche tirato insieme. Paolo M., 49 anni, a Milano è un dentista affermato. Il suo studio, non troppo distante da Piazza San Babila, è frequentato da VIP della televisione, donne soprattutto, che si sottopongono a una tecnica particolare che rende denti bianchissimi e sorrisi smaglianti. Sorrisi che lui, il dentista, non sembra nemmeno riuscire ad abbozzare. Da 2 mesi sta cercando di disintossicarsi assieme al figlio, studente al terzo anno di liceo classico, e per farlo ha chiesto aiuto a Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, la rete di comunità di recupero e di assistenza agli emarginati. In cura con loro ci sono altre 5 coppie familiari, altri padri, all'incirca della stessa età, 3 imprenditori, un medico e un avvocato, e altri figli, studenti, adolescenti o poco più. Genitori che sono stati sorpresi dai ragazzi mentre arrotolavano banconote per sniffare e che per sdrammatizzare il gesto hanno finito per coinvolgerli. Oppure ragazzi già consumatori che, riconoscendo i sintomi della droga nei più adulti, hanno rovistato nei loro cassetti e trovato bustine di cocaina. «Non ci dormo la notte», dice Don Mazzi. «Da mesi ricevo mail di uomini benestanti con una solida posizione sociale, ottimi stipendi e famiglie che a guardarle sembrano il ritratto delle pubblicità. Raccontano di essere prigionieri della dipendenza, di pippare con i figli, di essere allo sbando e non sapere come uscirne. Eccola, una delle facce nascoste, dell'uso forsennato di droga nella metropoli, Milano. Nelle statistiche la capitale d'Italia della cocaina, tra le prime città consumatrici in Europa». Padre e figlio che sniffano insieme, così, ogni tanto, a casa, il sabato sera prima d'uscire. Meglio ancora, se la mamma non lo sa. Chi lavora nei centri di recupero e nelle cliniche riesce a spiegare il livello di capillarità raggiunto e l'impennata di diffusione della cocaina solo attraverso una metafora. «La polvere bianca è la guerra del nostro secolo», dice Roberto Bertolli, direttore del reparto per gli abusi di sostanze della casa di cura privata Le Betulle ad Appiano Gentile, alle porte di Milano. Da sempre la generazione adulta, per motivi legati al denaro, manda a morire in trincea quella più giovane.

anche scene come questa. Vecchie che compaiono nel mezzo del secondo atto, truccate di cipria, in vestaglia, sorridenti, i capelli bianchi. Nonnine, che spacciano sempre buoni consigli, risolvono situazioni. Dalla platea non si sente se sono anche profumate. Annusa. Gli entra nel naso un profumo dolciastro, come se la vecchia avesse fatto il bagno nel rosolio. Ascolta. Non ci sono rumori. Silenzio totale, compatto. Come se fuori avessero sospeso del tutto la festa, spente le luci, chiuse le osterie. Sicuramente nevicava, tanto. Ecco il perché del silenzio. Dice ancora buonasera, giusto per sentire il suono della sua voce, inserire un rumore nel silenzio. Poi si sposta verso la porta, staccandosi dal pianoforte. Certamente non sono ancora le 11. È ancora in tempo per il treno. Ma la donna chiede: siete venuto per il pianoforte? Si è infilato in un bel guaio con l'idea che la casa fosse vuota. Il calzolaio l'avesse avuto per le mani. Ma non è colpa di quello, lo sa. Mica glielo aveva detto che la casa era disabitata. Lui se l'era messo in testa. La faccenda della delega, dell'incarico del proprietario, l'ha ingannato. Ma adesso è lì. Deve fare qualcosa per togliersi dal pasticcio, evitare che la vecchia si allarmi, che si metta a gridare, si faccia sentire dai vicini, riesca ad avvisare i Caramba, evitare di finire dentro per niente. Gli viene un'idea. Protende verso la donna le mani, le sue belle mani da pianista. «Sì», dice. La vecchia accende le luci della stanza, luci ridicole, lampadine da 30 candele. Il pianista vede il tavolo dove ha sbattuto e interra i cocci del vasetto che ha rotto. Con la coda dell'occhio guarda il pianoforte. Poi guarda la vecchia. Gli occhi le sorridono. Ha cipria sulle gote, una bocca priva di denti, rughe sulla fronte. Tiene le mani incrociate sull'addome. Lui, le sue, le ha ancora protese verso di lei. «Che belle mani da pianista», dice la donna. Fa un passo verso di lui. «Ci manca solo che sia matta», pensa il pianista. «Deve esserlo per forza, senza dubbio». Guardata a vista dal calzolaio che ha la delega del padrone di casa e dai vicini. Matta, senza parenti, in attesa che salti fuori il posto in qualche manicomio o ospizio. «È finito in casa di una matta», pensa il pianista. «Mi dispiace per il disturbo», butta lì. «Nessun disturbo». Torna a guardarlo, sempre con quel sorriso affabile sul viso. «È solo che dovrei andare», tenta il pianista. «E il pianoforte?» «Già, il pianoforte. Il calzolaio lì non c'entra niente. È stato lui a dire che era lì per quello». «Il pianoforte», sospira. «Sedete», dice la vecchia. «Ci mancherebbe sedersi. Fossi matto», pensa il pianista. Rotea gli occhi. La porta a un metro e mezzo. Calcola. Può prendere su una volata e sarà fuori dalla casa. Fa i conti. 1, 2, 3. Ma la vecchia si avvicina alla finestra. Vuole chiamare qualcuno, riflette il pianista. Si siede. «Ci sono certi spifferi», dice la vecchia dopo essersi assicurata che la finestra sia ben chiusa. «E poi, vi piace il mio pianoforte?» Il pianista fa sì con la testa. «Sì», conferma. «È un bel pianoforte», sussurra la donna. «Per lei è come un figlio», dice, e poi ride. «Come un figlio», ripete. «Un po' cresciutello, a dire il vero». 70 anni. «Complimenti», dice il pianista stupidamente, ma cosa può dire? Si sente di nuovo le orecchie e il naso caldi. Non ha ben capito se i 70 anni li ha la vecchia o il pianoforte. «I pianoforti non invecchiano mai», dice la donna. «Chi li suona invece sì». «Provate un po' a indovinare quanti anni ho», chiede. «Ai», pensa il pianista. Con i matti non si sa mai che risposte dare. Capace che se sbaglia, quella si infuria. Non avrebbe mai dovuto sedersi. Non avrebbe mai dovuto entrare in quella casa. 70, butta lì, come quelli del pianoforte. Dalla gola della vecchia esce un risolino. Inquietante in quel mezzo buio e nel silenzio compatto, nell'assenza totale di rumori da fuori. «Siete gentile», dice poi, «ma seria. Adesso da fuori», pensa il pianista. «E invece sono nata nel 1878», dice. «In quella stessa casa, figlia unica. Suo padre e sua madre l'hanno aspettata per 10 anni. Disperavano ormai di avere un figlio. Suo padre era macellaio. Il giorno in cui lei nacque, chiuse la bottega, anche se era giovedì. Gli altri commercianti lo criticarono per quel gesto. Lo considerarono un atto di superbia. Passò tutta la giornata a guardarla. Sua madre glielo raccontava sempre. «Complimenti», dice il pianista. «È fuori luogo, lo sa. Complimenti per cosa? Ma cos'altro si può dire? Potrebbe chiedere che ore sono, quello sì. Capire se fa ancora in tempo a prendere il treno delle 11». «Grazie», dice la vecchia. «E da che è nata, ha sempre abitato lì», aggiunge. «Sempre. Questo pianoforte è in casa mia esattamente dal giorno del mio 20° compleanno», spiega la vecchia. «Era un regalo del padre e per portarlo in casa l'avevano fatto passare da sotto, dalla macelleria. Imbragato sulle spalle di 3 uomini. E lei ha cominciato a studiare. Per giorni e giorni l'ha solamente guardato. Ha guardato i tasti bianchi e neri, pensando che dentro, dietro, sotto di loro e nelle sue dita c'era tutta la musica che sentiva nel mondo. Li ha guardati per farseli amici, per far intendere loro che li avrebbe sempre trattati bene, farsi perdonare in anticipo gli errori che avrebbe commesso. Ero solo all'inizio», dice la vecchia. «Per un anno intero, 8 ore al giorno di studio, solfeggio, mai un dito su un tasto. Niente. Tanto che suo padre, dopo un po' di mesi, è andato a chiederle se per caso le fosse passata la mania del pianoforte e non le fosse venuta invece quella di trovarsi finalmente un marito. Vi pare che potessi tradirla?» chiede la vecchia. Il pianista si riscuote da una piccola botta di sonno. La voce della donna è come una strada tutta curve. Lui l'ha seguita per un po', poi è come se si fosse messo a guardare fuori dal finestrino. «Ha inteso la domanda? Chi?» chiede. La vecchia non risponde, sorride, tace ancora. «Bene», fa allora il pianista, «se vogliamo parlare di soldi...» Dentro di sé sorride. «Che soldi? Avrà in tasca giusto quelli per il biglietto del treno». «Oh», fa la vecchia, «se è per quello, c'è tempo. In ogni caso non dovete temere. Lo strumento è in ottimo stato. L'ho appena fatto accordare. Figuratevi che mi è costato la bellezza di 20 lire». Il pianista corruga la fronte. «Ha detto 20 o 20.000? «E mai nessuno l'ha usato all'infuori di me», aggiunge la vecchia. «E ormai sono... Sembra che cerchi qualcosa nell'aria della stanza, il numero degli anni che non lo usa più. Non lo trova. Erano anni, insomma, che non lo usava più. Non poteva più usarlo. Le dita, l'artrosi, sapete?» Il pianista fa sì con la testa. «Ma le piacerebbe ascoltare un poco di musica», dice la vecchia. Il pianista rompe gli indugi. «Io non so suonare», dice, con un po' di cattiveria nella voce. La vecchia si porta una mano alla bocca. «Davvero?» è meravigliata. «Davvero», conferma lui. «Peccato. Però ha capito una cosa. Ha capito che ha voglia di cominciare». «A far cosa?» chiede il pianista. «A suonare», risponde la vecchia. «Con quelle belle, lunghe, perfette mani da pianista, finalmente ha deciso di imparare a suonare. E lei è estremamente felice che lui abbia scelto il suo pianoforte per imparare. D'altronde non è difficile», spiega. «Ci vuole buona volontà, esercizio. Tanto esercizio. Non bisogna mai scoraggiarsi». «È facile», dice la vecchia alzandosi. Il pianista la segue con gli occhi, ma non si allarma. Comprende le sue intenzioni. Non si sta dirigendo verso la finestra, ma verso il pianoforte. Così fa, infatti. «Mi siederò qui», dice. Prende una sedia e la pone davanti allo strumento. Le sue povere dita rovinate dall'artrosi, dice, le impediscono di suonare. Non però di indicare a lui cosa fare, come muoversi sulla tastiera, per dimostrargli come sia facile suonare. «Non bisognerebbe mai lasciare il coperchio alzato», dice. «La polvere entra fra i tasti, si deposita sulle corde, altera il suono. Ricordatelo. Prima lezione», aggiunge sorridendo. «E adesso sedetevi sullo sgabello», ordina. Il pianista guarda le sue belle lunghe dita da ladro. Le estende per bene. Chissà cosa gli toccherà fare adesso. «Cominciamo con un valzerino?» chiede la vecchia. «Sempre meglio del silenzio che viene da fuori», pensa il pianista.